Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Potete provare con l'uncinetto, con lo scopone scientifico, con l'origami, oppure scegliere di spaparanzarvi davanti alla TV o misurarmi con un videogioco. Tutto aiuta, se piace, a staccare la spina, a rilassarsi o a rigenerarsi. Ma, cari amici, se volete prendere non due, ma un'intera famiglia di piccioni con una fava, leggete. La lettura nutre, rilassa e allena. Secondo le ricerche è proprio la scelta migliore per avere un immediato e duraturo benessere psicofisico. Qua in studio con me è tornato a trovarci il dottor Luigi Ballerino, Ballerini, medico, buongiorno, scrittore, psicoanalista freudiano, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Allora, da scrittore e da psicoanalista ci tiri fuori qualche cosa dal suo cappello sulla lettura, perché lei sarà anche un lettore. Sì, sì, sì, certo che sono lettore, ma io personalmente considero la lettura un caso di curiosità e io ho la massima stima della curiosità, vuole dire tenere gli occhi aperti, vispi, andare a vedere, chiedersi che cosa accade, scoprire cose nuove, per cui innanzitutto la lettura è un caso di curiosità e poi mi piace fare il paragone tra leggere e mangiare. Piace anche a me, è vero. Perché in fin dei conti, lo diciamo anche, l'ho divorato quel libro, sì. Vuol dire che proprio ci sono stato dentro, che l'ho fatto mio, che io sono diventato quei personaggi, ho vissuto quella storia e come il mangiare mi piacerebbe o dovrebbe essere legato al piacere, quindi alla dimensione del piacere. Io quando uno inizia a mangiare perché devo stare attento su certe cose, insomma il mangiare diventa un po' più difficile. Che bello quando si mangia per piacere, con gusto, lo stesso alla lettura. Allora l'invito è quello, se abbiamo il gusto della lettura o se l'abbiamo perso, se riusciamo a recuperarlo in qualche modo. E quindi che tipo di lettore sei e soprattutto da quando hai smesso di essere un lettore, perché? Ma io credo che sia interessante questo, perché abbiamo due possibilità, o sì, leggiamo o non leggiamo. No. Se leggiamo dobbiamo chiederci che cosa leggiamo, leggiamo di tutto o solo qualche cosa di molto specifico? Ma se non leggiamo, primo, vuol dire che a un certo punto della nostra vita abbiamo smesso di leggere. Sarà interessante capire quando è accaduto. È accaduto a scuola, paradossalmente, quando dovremmo iniziare invece abbiamo smesso, quando abbiamo iniziato a lavorare, altro da fare. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde, 349 238 6666, naturalmente l'invito è anche quello di seguirci sempre su Facebook e su Twitter. E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa, imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo. Pensi che aiutavo mia madre dopo la scuola quando avevo solo 6 anni e la imitavo. Lei non si limitava solo a vendere libri, no, lei aiutava i bambini a diventare quello che poi sarebbero diventati. Perché se leggi un libro da piccolo diventa parte di te, come non succederà mai con altre letture. E io sono partita in quarta, Ce lo sentiamo ripetere sin da quando siamo piccoli, l'abbiamo ripetuto a nostra volta, più o meno convinti. Leggi che diventi intelligente, leggi che così impari a scrivere, leggi così ti si apre la mente. Ragazzi, è tutto vero, la lettura fa bene al cervello. In linea con noi abbiamo il professor Alberto Oliverio, buongiorno professore. Buongiorno a voi. Psicobiologo all'Università di Roma, La Sapienza. Professore, sembra che leggere sia una ginnastica straordinaria per il nostro cervello, sia forse per farlo crescere che per mantenerlo in forma. È vero? Ma penso proprio di sì, perché il nostro cervello è in gran parte basato sul linguaggio, almeno tutto l'emisfero sinistro si è dedicato al linguaggio e quindi alle parole, alla lettura, all'ascolto, insomma. Indubbiamente la lettura ha una marcia in più, perché nel leggere noi dobbiamo fare un lavoro mentale che ci consente di visualizzare le scene che leggiamo. Qualsiasi romanzo, diciamo, ci richiede di immaginare quale sia il volto dei personaggi, di immaginare quali siano gli ambienti in cui si muovono e così via. Indubbiamente la stessa dimensione estetica può averla anche un film, la trasposizione appunto di un romanzo in immagini, però nel film noi guardiamo e ci limitiamo, come dire, a registrare, vorrei dire quasi una pappa già scodellata, insomma, mentre nella lettura siamo noi che dobbiamo compiere questo lavoro. Professore, però leggere costa un po' fatica, no? Anche perché noi non siamo nati né per leggere né per scrivere, lo facciamo solo da poche migliaia di anni, e imparare a farlo richiede sempre un po' di impegno. Il dottor Ballerini, che è qui con me, chiedeva agli ascoltatori: siete dei lettori, che cosa leggete? Ha paragonato un po', e ritorno ai miei ascoltatori per invitarli a partecipare, al mangiare, no? E ciascuno di noi ha dei gusti, ma si può anche smettere di leggere per una qualunque ragione, perché siamo troppo indaffarati, siamo tristi, non abbiamo tempo. Lei che tipo di lettore è? Un lettore assiduo, un lettore di romanzi, un lettore di saggi, ovviamente dal punto di vista professionale o invece dal punto di vista così del piacere della lettura. Devo dire che spesso le descrizioni, io mi interesso di cervello e comportamento, quindi diciamo sembrerebbe un settore distante, ma in realtà molte delle descrizioni che la letteratura fa dell'agire umano, del pensiero umano e così via, sono estremamente profonde, dettagliate e in qualche misura possono esserci anche utili per dire che cos'è il pensiero, anche che cosa non è. Professore, leggendo alcune ricerche, alcuni studi, si scopre che leggendo si attivano una parte del cervello e si mettono in moto una serie di meccanismi. Che cosa succede in realtà? Ma in realtà, diciamo, il cervello è fortemente impegnato nella lettura ed è per questo che per i bambini piccoli, diciamo, può diventare qualche cosa di un po' gravoso. È in funzione della memoria di lavoro, quindi la corteccia frontale, la capacità di prestare attenzione, perché se uno non presta attenzione fa una lettura superficiale, e poi naturalmente i centri del linguaggio, perché le parole che leggiamo vengano tradotte, diciamo, in significati. Viene attivata anche l'area visiva, perché è la stessa area in cui noi visualizziamo quelle scene che stiamo leggendo, cioè le immagini mentali si basano sulla stessa area che decodifica le immagini. E poi ci sono le emozioni, ovviamente, in gran parte l'emisfero destro. Quindi direi che tutto il cervello viene messo in è proprio una ginnastica. Una grande palestra la lettura. Professore, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Anche a voi, arrivederci. Quel che abbiamo letto di più bello lo dobbiamo quasi sempre a una persona cara. Ed è a una persona cara che subito ne parleremo. Forse proprio perché la peculiarità del sentimento, come del desiderio di leggere, è il fatto di preferire. Amare vuol dire, in ultima analisi, far dono delle nostre preferenze a coloro che preferiamo. E queste preferenze condivise popolano l'invisibile cittadella della nostra libertà. Noi siamo abitati da libri e da amici. Daniel Pennac. Bisogna quindi avere buoni amici per essere buoni lettori, e noi un amico ce l'abbiamo al telefono, Enrico Ruggeri. Ciao Enrico. Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Enrico, i libri, secondo Pennac, ci vengono sempre suggeriti dalle persone amiche. Qual è l'ultimo libro che ti hanno consigliato e chi te l'ha consigliato? Ma l'ultimo libro che mi hanno, che è una cosa un po' strana, nel senso che quando vado a fare concerti mi regalano delle cose i fan, che io metto da qualche parte e poi riprendo quando è finita la tournée, e quindi non so chi me l'ha regalato, però c'è un libro che si chiama Felicità di Will Ferguson, che è un libro molto interessante. Ferguson è un canadese, ipotizza un mondo nel quale uno scrittore riesce a scrivere un libro di questi manuali di autoaiuto, per il quale tutta la gente è felice, ma è felice in una maniera asettica, e naturalmente le industrie crollano perché tutti i bisogni legati alla felicità vengono a mancare, e quindi insomma, un libro molto di quelli in cui si sorride e si riflette. Però quindi, non so chi me l'ha regalato. Ecco, allora possiamo, dai microfoni di Essere Benessere di Radio 24, dire l'ascoltatore, se c'è tra di voi il fan di Enrico Ruggeri che gli ha regalato questo libro, può chiamarci o scriverci, che così vi rincontrate. E tu qual è l'ultimo libro che hai suggerito, e a chi soprattutto hai dato questo suggerimento? A me piacciono le biografie, c'è un libro molto interessante che si chiama Life di Keith Richards, che è il chitarrista dei Rolling Stones, che ho consigliato a dei miei musicisti, amici musicisti, perché è un libro scritto bene e che naturalmente è la testimonianza, insomma, di un'epoca avventurosa, irripetibile, scriteriata, folle, eccetera. Rogeri, una domanda impertinente. Da psicoanalista, è attento Enrico. Ci crede alle biografie? Ma ci pensavo proprio ieri, perché adesso sto leggendo una biografia di Lou Reed e stavo pensando, se uno scrivesse la mia vera biografia, in realtà sarebbe difficile mettere a fuoco me come qualsiasi persona, naturalmente. Quindi ci credo o non ci credo, ci sono cose alle quali mi piace credere, cioè, ci sono biografie fatte bene dove quantomeno si va a cercare la persona vicina al soggetto, all'oggetto della biografia. Ci credo o non ci credo, però è bello perché spesso sono parte di un periodo. È chiaro che nell'autobiografia uno scrive le cose che vuole che gli altri sappiano di lui, e invece nella biografia scritta da un altro, anche lì nessuno è dentro al cervello degli altri. Per cui ci crede o non ci crede, è una bellissima domanda. Tra le due io sono tentato a credere di più a una biografia che a un'autobiografia, soprattutto dei personaggi delle due. Famosi, che a un certo punto insomma ci piace, ma a tutti, far credere di noi qualche cosa che magari certo. Se non è inventato è la parte migliore. Inevitabile e lecito, direi. Enrico, tu hai due figli? Tre in totale. Sì. Che lettori sono? Tu hai cercato, come fanno molti genitori, anch'io, di aiutarli a diventare lettore, a convincerli, oppure lasciati un po' dando solo l'esempio, mettendo a disposizione dei libri? Perché tante volte i bambini non leggono perché le nostre case sono povere di libri. No, la mia trabocca è uno dei problemi di gestione della mia casa, mettere i libri. Beh, io ho un figlio di 22 anni che legge molto di suo, insomma, è nella fase, diciamo, ricerco me stesso attraverso quello che scrivono gli altri, quindi nella fase Jodorowsky, filosofia, viaggi in India, cose di questo. È un po' antico in questo senso mio figlio Pico, quello che ha 22 anni, nel senso che fa delle cose che normalmente si facevano un po' di anni fa, che facevamo noi. Esatto, sono orgoglioso di questo. Certo, anch'io. Gli altri hanno 7-2 anni e vedo che leggono, se non altro per imitazione, cioè quello di 7 anni naturalmente comincia a leggere i libri che si leggono a 7 anni. E quella di 2 vede che in casa leggono tutti, allora finisce di leggere anche lei. Comunque il meccanismo dell'imitazione è davvero forte ed efficace, fino a creare quegli aneddoti che abbiamo visto tutti, magari di un papà o di una mamma che sono sul divano a leggere un libro e un bambino, una bambina piccola che è seduta a fianco ma col libro rovesciato. Esatto. È proprio un meccanismo di imitazione, che perché poi si assimila anche la lettura e si impara, si vede che il semplice fatto che vedo che qualcuno ci sta dedicando del tempo e ne sta godendo fa venire voglia anche a me. È vero, è vero. Tra l'altro i bambini piccoli, gli specialisti suggeriscono di leggere i libri. Per i bambini che non sanno ancora leggere è importante ascoltare e farsi raccontare o leggere un libro. Tra l'altro poi loro vogliono esattamente, no, che si ripeta sempre quella parte del libro lì, dottor Ballerini. Ma questa è una caratteristica, l'ho visto anche io con i miei figli e con moltissimi bambini piccoli, che appena si cambia, la volta che si cambia la strada di Cappuccetto Rosso nel bosco, ma non era così, no? Me l'avevi raccontata diversa. Non è perché i bambini sono ripetitivi in sé, ma ai bambini piace ripetere la soddisfazione che hanno avuto la prima volta che gli è stata letta. E allora quella volta che me l'hai letta così è stato così bello che me la voglio che di tu nuovo. Me la ripeti, perché voglio ripetere l'esperienza di quanto è stato bello. È un meccanismo che applichiamo anche noi adulti, anche se non riesce quasi mai, quello di cercare di tornare nei luoghi, di rifare delle cose che ci hanno reso felici. Ai bambini, grazie a Dio, riesce ancora. Ai bambini riesce, ma è un buon per loro. Enrico, una casa piena di libri, ma che rapporti hai con i tuoi libri? Il libro è anche un oggetto, no? Da toccare, sfogliare, aprire, annusare. C'è chi i libri li presta, chi invece li tiene tutti per sé, chi no, si ferma ogni tanto a riguardarli, li apre, va a vedere se dentro è finita magari una cartolina o un appunto. È un oggetto. letto il libro. Io quando vado in libreria mi rendo conto che sono attratta magari dalla copertina, dal carattere, i libri, il profumo dei libri nuovi, insomma ha tutto un suo fascino e ciascuno di noi si relaziona con questi oggetti in modo differente. Beh sì, intanto è un oggetto che racconta molto del proprietario, insomma io quando devo conoscere meglio una persona, a volte magari anche per, non so, per assumerla, oppure anche solo per avere un contatto lavorativo con questa persona o umano, insomma, tre domande sui libri le faccio: cosa leggi, cosa non leggi, che musica ti piace e che libri leggi, sono due domande chiave. E se vado in casa di qualcuno, insomma, diffido un po' delle case dove non ci sono libri, mi spaventano un pochino. Enrico, tu sei un lettore appassionato, ma anche uno scrittore. Sì, beh, io scrittore è una parola grossa che uso con circospezione, perché avendo letto grandi libri ho un po' paura a usare questa parola. Sì, però ho scritto, sta per uscire il mio ottavo libro, il mio secondo romanzo. Insomma, è una cosa che mi piace, è una cosa liberatoria, che imprigiona meno del meccanismo che è scrivere una canzone. Credo che non sia un caso che tutti i cantautori in qualche momento della loro vita abbiano scritto un libro, oppure abbiano dipinto, oppure abbiano fatto un film, proprio perché la struttura della canzone è meravigliosa, però a volte imprigiona un pochino. Ruggeri, è successo a me, per cui può cadere anche a lei. Lasciamo cadere la modestia del non chiamarci scrittori. Anch'io che pubblico per ragazzi ho sempre un po' di ci viene da dire, ma farò bene, ma forse non sono uno scrittore, anche perché come bisogna chiamarvi, esatto, no? In realtà se noi abbiamo scritto qualche cosa che qualcuno ha addirittura comperato e poi magari ci ha addirittura detto che gli ha fatto piacere, ha trascorso un pomeriggio bene, certo che siamo scrittori. Va bene, allora. Allora, saluto Enrico Ruggeri, amico e scrittore. Grazie. Lo rinvito qua, però, in carne e ossa, qua a Radio 24. Enrico, un abbraccio, grazie. Un abbraccio a tutti, ciao, arrivederci. La lettura fa di un uomo un essere compiuto. Bacone. E noi abbiamo Milena da Macerata, Bruna da Milano, Massimo. Milena, buongiorno. Buongiorno a voi. Siamo pronti. Legge o ha smesso? Allora, state parlando con una drogata di lettura. Secondo me la giornata, 24 ore non sono sufficienti. E le emozioni che derivano da questa lettura mi fanno fare delle cose pazzesche, tipo leggendo Bucciati, io lo amo profondamente. Sì. Scaturiscono fiumi di emozioni e anche se ho terminato il libro all'una e mezza di notte o le due, cioè io devo assolutamente svegliare il mio compagno, il mio fidanzato, e raccontare ciò che mi è rimasto dentro. È proprio vero, Milena, lei è vero, io capisco che ci sia questa sensazione, questo piacere di raccontare subito e mi rifaccio ancora a quello che scrive Pennac. Certo che Milena, posso dirle che lei ha un compagno molto tollerante, dottor Ballerini, che dice: condividere un'emozione ma essere svegliati nel cuore della notte, beh, è una prova d'amore. È una prova d'amore, ma credo che il suo compagno apprezzerà, posto che poi il suo sonno non venga disturbato permanentemente, questa condivisione, perché in realtà non sta Milena non sta condividendo un'emozione, sta condividendo un pensiero. Leggere qualcosa le ha fatto venire in mente un'idea che magari non c'era prima, ed è un'esperienza così bella che la vuole condividere. Quindi trasformiamo quelle che noi consideriamo emozioni leggendo un libro, diamogli la dignità di un pensiero, perché poi di quei pensieri possiamo farcene qualcosa. Le emozioni poi restano un po' ingombranti, nel senso non sappiamo bene cosa farcene. E questo passaggio Milena l'ha già fatto, quindi perfetto, devo dire Milena. Perfetto. Continua Milena. Bruna da Milano, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie Bruna. Volevo dire che i libri, come avete già detto, è proprio, vanno gustati, e io mi domando, perché non riesco, come fa la gente a leggere in metropolitana. Perché per poter acquistare un libro che vi porto dietro ogni tanto, ma devo essere in un ambiente un attimino soffuso, tranquillo. Quindi lei è un po' una degustatrice, diciamo, Bruna, ha bisogno di tutta l'atmosfera intorno. Certo, ho bisogno di avere un'atmosfera rilassata per addentrarmi e gustarmi quello che sto leggendo. E non riesco a leggere quando sono triste, per esempio. Eccola qua, che è vero, perché il dottor Ballerini diceva: quando uno legge sta bene. Io devo dire che leggo anche in metropolitana e leggo anche, cioè io dove mi trovo leggo, non ho tanto, non sono così raffinata. Ma Bruno ci ha aiutato così, ci ha dato il là per scoprire che esistono diversi tipi di lettori. Esistono i lettori concentrati, quelli che hanno bisogno magari di una bella lampada, di un momento di tranquillità e di silenzio, e ci sono i lettori per i quali ogni occasione è buona, per cui tre fermate di metro, sei minuti sono perfette per leggere. Sono entrambi dei lettori, però, ognuno al suo modo. Però la nostra amica ci dice anche che non riesco a leggere quando sono triste. Noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori: avete smesso di leggere perché? Questo può essere ad esempio una sospensione temporanea dettata da uno stato d'animo che ci impedisce di andare incontro ad un amico. Leggere o smettere di leggere perché? In linea con noi abbiamo Massimo, che ci chiama da Milano. In studio abbiamo il dottor Ballerini. Buongiorno Massimo. Sì, buongiorno. Eccoci. Io vorrei fare brevissimamente la mia biografia. Io ho 67 anni, sì. Ho studiato fino a 16 anni, poi ho lavorato, sono 51 anni che lavoro, ho sempre fatto il venditore. Sì. Io 7-8 anni fa ho avuto fulgorato sulla via di Damasco facendo un corso a una università per gli anziani e ho cominciato a studiare filosofia. Filosofia pensavo che fosse una cosa per sfigati, vuol dire per disoccupati, invece è una cosa che ti allarga la mente. Io giro sempre con un libro in tasca, metropolitana, treni, per cui quando non ho mai un momento di pace, per cui leggo, e questo continuare a leggere mi ha dato una convinzione che la cosa più importante nella vita è la libertà, e la libertà tu l'acquisisci con la conoscenza. Massimo, dica. Ma io sono felice che lei ci abbia chiamato all'800240024, perché la sua telefonata è anche piena di energia, eh? È abbastanza. È pienissima di energia e ci racconta quella che potremmo definire una vocazione tardiva. L'aver iniziato un po' più avanti a leggere. Non è mai troppo tardi. Esatto, ci dice che quelli che incontro spesso delle persone che dicono: ah, io sono uno che non legge, o una che non legge. Questa è una definizione di sé scorretta, bisogna dire io sono uno che al momento non trova gusto nella lettura, però Massimo ci ha detto che può accadere qualche cosa che ci si apra un po' la mente, lui ha scoperto che la filosofia non era quella che pensava, ma è molto di più, è molto più bella, e questo gli ha dato il là. Molti ci stanno scrivendo al 349-238-6666 e vi ringrazio perché state chiamando il nostro numero verde, e dai messaggi tutti gli ascoltatori mi dicono: leggo molto, cosa leggo? E sembra quasi impossibile, non c'è nessuno dei nostri ascoltatori oggi che è in un momento in cui ha sospeso di leggere. Il dottor Ballerini diceva: magari può essere un momento difficile, perché si legge quando si sta bene. E poi ci sono tante altre ragioni che ci allontanano, perché i dati sembrerebbero non tanto edificanti. Qua io ho catturato, perché è stata veramente una cattura, la nostra cacciatrice di libri, Alessandra Tedesco, che voi seguite ogni sabato alle 21. Alessandra. Eh sì, purtroppo in Italia abbiamo un indice bassissimo di lettura, leggiamo forse meno di tutti gli altri cittadini europei. Pensate che in Italia solo 4 persone su 10 leggono almeno un libro all'anno. Cioè, che non vuol dire tanto, mentre i lettori forti, quelli che leggono almeno 3 libri al mese, sono veramente pochi. È interessante anche notare come la fascia di lettura, l'indice di lettura più alto, si registri fra gli 11 e i 14 anni. È un momento in cui i ragazzi si appassionano alla lettura. Dopo i 16 c'è il crollo. Evidentemente i ragazzi sono attratti anche da altre cose, che possono essere appunto i computer, i videogiochi, le altre cose così. Ma c'è qualcosa che in qualche modo li allontana dalla lettura. Secondo me è il modo in cui viene proposta la lettura, cioè sempre come un obbligo. Se io a scuola propongo di leggere I Malavoglia, per esempio, come hanno fatto me quando ero alle medie, io, vabbè, ero una ragazzina un po' strana, I Malavoglia mi sono piaciuti. Magari a un ragazzino di oggi I Malavoglia non piacciono. Bisogna, prima dicevate, sono un lettore o non sono un lettore, bisogna sempre trovare il libro giusto nel momento giusto. Perché se io leggo Proust a 20 anni, magari non ci capisco niente, a 40 ho un'altra visione del mondo. Quindi esiste sempre il libro giusto per la persona giusta nel momento giusto. Libro giusto per la persona giusta al momento giusto. Io ho chiesto ad Alessandra Tedesco di fermarsi qui perché vorrei ricevere le vostre telefonate e avere da voi indicazioni per farvi suggerire il libro giusto, magari per questo weekend. Naturalmente un libro che ci dia benessere e quindi... Tutti i libri danno benessere, se mi permetti. Bisogna vedere lo stato d'animo in cui si è. Allora voi chiamate, date le vostre indicazioni, presentatevi e chiederemo ai nostri esperti di suggerirvi il libro per questo weekend, a iniziare nel weekend. 800 24 00 24, abbiamo Rosa che ci chiama da Caserta. Buongiorno Rosa, benvenuta. Buongiorno a lei, dottoressa, buongiorno. Io sono la sua affezionata Rosa, che bellezza. Splendida. Allora, io niente, telefonavo perché chiedevo un attimo consiglio. Sì. In quanto la bambina, mia figlia, 12 anni, in precedenza alle scuole elementari, una maestra molto brava ha istituito una biblioteca di classe, loro si scambiavano i libri, quindi era un libro al mese, e lei pian piano insomma stava affezionandosi un po' alla lettura. Ora alle medie, non so, c'è stato proprio il crollo. Sì, perché forse ha tante cose da studiare, dottor Ballerini. No, no, ma mia figlia in particolare no. No, nessuna. No, la mamma ha detto no, no, non ha da studiare. È proprio che qualche cosa è cambiata nella sua testa. Dottor Ballerini. Ma, lei che è uno scrittore anche per ragazzi. Di solito quello che accade, sono proprio d'accordo con Alessandra Tedesco, nel senso, quando facciamo diventare la lettura un obbligo, e soprattutto a scuola la cosiddetta scheda ammazza la lettura, perché se io devo leggere un libro e poi devo fare il riassunto, che vuol dire, ma sono in grado di capire che cosa dice questo libro, e poi devo fare i personaggi, insomma diventa un esercizio per una performance scolastica, non è più un esercizio per il piacere personale. Allora ci sarà da fare anche questo esercizio e forse gli insegnanti dovranno trovare il modo per renderlo anche piacevole, o magari per far capire a cosa serve, perché a volte chiediamo ai ragazzi di fare degli esercizi senza dar loro gli strumenti di capire cosa devono fare. Quindi Alessandra, tu che cosa suggeriresti per stuzzicare un per po' stuzzicare, l'appetito? Ecco, l'appetito, un saluto della cucina come fanno, come fanno in molti ristoranti chic. Allora, il mio consiglio è il seguente. Esistono tantissimi libri dedicati agli adolescenti e preadolescenti. Si chiamano in gergo young adult. Possono essere quelli dei vampiri o tantissimi altri. Esistono intere collane dedicate a loro che hanno tutti i generi, dall'horror al giallo al rosa. Quindi c'è veramente tutto. Basta semplicemente andare in una libreria e farsi consigliare il libro giusto per quella ragazzina appunto che ha quell'età. No, questo mi dà là proprio per dire anche come io sia fermamente convinto che non esiste lettura di serie A e lettura di serie B, perché noi consideriamo la lettura solo magari i classici piuttosto che quello che piace all'adulto e disdegniamo questa che viene chiamata la letteratura contemporanea pensata per i ragazzi. Allora anche in questo c'è tanta fuffa, bisogna scegliere bene, ma è proprio bello se noi diamo l'opportunità ai ragazzi di andare loro in libreria, di guardare la copertina che la attrae, leggere la quarta e essere stuzzicati da una storia d'amore, magari la stessa in cui si sentono incastrati in questo momento, e possono rispecchiarsi. Allora sì che quella lettura che è per scelta può diventare interessante e può essere l'occasione di scoprire, ma guarda, c'è stato nel mondo un altro ragazzo, un'altra ragazza che sta vivendo questa esperienza. Abbiamo tempo per sentire Riccardo dalla provincia di Latina prima di andare alle informazioni sul traffico. Buongiorno Riccardo e benvenuto. Io purtroppo ho potuto seguire soltanto una piccola parte della trasmissione. Aspetti, me la lasci dire. Può scaricarci, Riccardo. Questa è un'ottima opportunità, perché lei può andare sul nostro sito, scaricare la puntata e riascoltarsi. Sì, assolutamente. Fantastico. Assolutamente, questo sicuramente lo farò. Però ho sentito l'intervento di un'ascoltatrice di prima che diceva che quando è triste non riesce a leggere. Io credo che effettivamente sia vero, però quando si è tristi può essere molto anche terapeutico, più che leggere e scrivere. Questo lo dicono anche scrittori sì. abbastanza affermati, insomma certo. hanno cominciato molto spesso proprio perché hanno trovato nella scrittura una forma di, in un certo senso per così dire, di terapia, tra sì. virgolette. Credo che non occorra essere scrittori necessariamente, però... No. Sicuramente anche diciamo, l'abitudine a scrivere, oltre che quella a leggere, fa molto bene in generale. Effettivamente per leggere, credo, ma anche come per ascoltare musica, ad esempio, credo che effettivamente uno stato d'animo di serenità, di quiete, eccetera, effettivamente sia in un certo senso necessario, perché se si è tristi, effettivamente una lettura o l'ascolto di una musica può addirittura aumentare, come dire, uno stato d'animo non particolarmente, diciamo così, positivo, ecco. E quindi sì, credo che io penso che questo consiglio di Riccardo, vedo che i miei esperti annuiscono, sono soddisfatti, possiamo prenderlo come consiglio del giorno, possiamo magari riproporre anche dei momenti di scrittura quando non abbiamo voglia di leggere. Eccoci qui, il nostro ascoltatore diceva si legge e se poi si diventa tristi per un momento di solitudine è possibile anche ritrovare, no, un benessere nella scrittura. Nella scrittura, questo sicuramente. Ci sono però degli ascoltatori che mi chiedono un aiuto invece ancora nel libro, come ad esempio Alessandra da Novara che dice: sono in un momento di sfiducia negli altri, forse anche in me, c'è un libro che potrei leggere, sento il bisogno di centrarmi su di me e sulle mie risorse. Allora, ho un libro a questo proposito che fa recuperare secondo me la fiducia in se stessi e la forza interiore, e sostanzialmente uno dei grandi successi del 2012, Se ti abbraccio non aver paura, scritto da Fulvio Ervas, pubblicato da Marcos y Marcos. Lo ricordiamo brevemente, racconta la storia di questo papà che ha un figlio 18enne autistico e che lo porta a fare un viaggio in moto nel Sud America e negli Stati Uniti. Cosa c'è di strano? Che gli autistici in genere sono abitudinari, ripetono sempre le stesse cose, e portare un ragazzo fuori dal suo contesto a fare un viaggio così avventuroso è stata un'esperienza meravigliosa. Questo libro non è per niente lacrimevole, no. Anzi, alla fine della lettura si ha il senso della gioia, dell'ironia e di dire: caspita, allora ce la posso fare anch'io. Abbiamo avuto proprio il papà che è stato con noi, Franco Antonello, proprio in occasione della festa del papà, il 19 di marzo. Abbiamo aperto proprio con lui, che ci ha raccontato la sua esperienza. Si legge per piacere, per dovere, quando si deve studiare, ma si legge anche per risparmiare. In linea con noi abbiamo Raffaele Brogna. Raffaele, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori. Ideatore di Io leggo l'etichetta, un movimento di consumatori attenti per acquisti intelligenti e risparmiosi. Michele, sì. Leggi e noi leggiamo con te, guardiamo l'etichetta. Sì, assolutamente, l'etichetta è una miniera di informazioni per noi consumatori e Io leggo l'etichetta lancia questo messaggio: dedicare un pochettino più di tempo alla lettura delle etichette, perché in questo periodo di crisi si può risparmiare addirittura fino a oltre 1.400 euro l'anno sulla spesa. L'etichetta è una miniera di informazioni, noi fino a un po' di tempo fa eravamo attratti da informazioni primarie importantissime, quali gli ingredienti, le tabelle nutrizionali e ovviamente anche il prezzo riportato sul cartellino, ma siamo stati attirati da un'informazione ulteriore che per legge in Italia sui prodotti deve essere riportata, che è quella che identifica lo stabilimento di produzione, ovvero il produttore è obbligato per legge a riportare questo dato. A una determinata via, un determinato numero civico non può che corrispondere un solo stabilimento di produzione, e così abbiamo scoperto che indipendentemente dai marchi con cui vengono commercializzati diversi prodotti, troviamo dei prodotti a volte anche identici, che però costano di meno. Sono spesso i prodotti della grande distribuzione che vengono fabbricati da noti, notissimi marchi e che hanno delle caratteristiche qualitative analoghe, se non identiche, a prodotti di marca, e spesso vengono anche il 30% in meno. Quindi, guardando l'etichetta rapidamente, Michele, noi che cosa dobbiamo guardare? Il prezzo al chilo? prezzo al chilo, il prezzo unitario di prodotto, prima di tutto il prezzo al chilo, poi gli ingredienti che sono scritti in ordine di quantità, quindi non dimentichiamo che ovviamente una cioccolata, se c'è come primo ingrediente lo zucchero piuttosto che le nocciole, ovviamente è più scadente a livello qualitativo, le tabelle nutrizionali, importantissime, e una volta che vediamo che i prodotti coincidono a livello di ingredienti e tabelle nutrizionali, io consiglio di prendere entrambi i prodotti, provarli a casa, vedere se effettivamente sono identici e a quel punto fare le proprie valutazioni, sapendo che c'è sempre un prodotto che costa meno dell'altro. Noi ne abbiamo trovati diversi, c'è una lista che è consultabile sul sito internet o sulla community della Quell'Etichetta su Facebook, che cresce continuamente grazie al contributo di tutti gli utenti. Sì, e quindi si va sul sito, sul vostro sito, io leggo le etichette e c'è un po' di spesa già fatta, diciamo così, Raffaele. Sì, assolutamente, semplifica il lavoro. Proprio perché c'è una community, in questo momento di crisi è bellissimo quello che sta avvenendo, la collaborazione e l'aiuto reciproco di tanti consumatori che si incontrano sulla rete attraverso questo movimento che punta al risparmio, punta anche a sentirsi meno soli e a condividere questo compito. Che insomma, fare la spesa può essere anche un'occasione per risparmiare e per scegliere bene. Grazie a Raffaele Brogna per essere stato con noi, io leggo l'etichetta. Buona giornata. Buon lavoro, arrivederci. Adesso, in chiusura, abbiamo parlato di letture. Il nostro occhio sembra legga veloce, lo sapevi, Alessandra? Sì, perché perché tu leggi personale, devo leggere in contemporanea 200 libri e velocemente. Ed è bravissimo. No, io ho aperto dicendo: non siamo nati per leggere, no? In realtà l'abbiamo imparato a fare nel corso degli anni e questo ha richiesto un esercizio al nostro cervello. Ma l'occhio si comporta veramente un fenomeno. Anzi, proprio aprendo il libro e posando l'occhio sul testo scopriamo delle cose molto interessanti che ci racconta la nostra Francesca Dragotto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ricercatore nel settore glottologia e linguistica all'Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di Lettere e Filosofia. Grazie. Abbiamo detto tutto. Sì. Dottoressa Dragotto, il nostro occhio corre veloce ed è molto in gamba. Molto più che in gamba, ci sono opinioni diverse su come ci si riesca ad appropriare dei contenuti che si leggono, però vi invito a fare un piccolo esperimento. Ho riportato un pezzettino sulla pagina Facebook di Essere Benessere ed è un esperimento che invito veramente a provare, e si tratta della lettura a lettere invertite. Basta dare un'occhiata a quel testo per rendersi conto di come l'occhio non passi in esame, quindi non scannerizzi tutte quante le lettere costitutive di una parola, ma ciò nonostante, nonostante le lettere siano invertite, riesca ad accedere al contenuto. Fantastico. Del testo. Grazie alla dottoressa Dragotto che ha messo sul nostro pagina Facebook questo esercizio, fatelo. Grazie alla dottoressa Dragotto, al dottor Ballerini, alla nostra cacciatrice di libri, Alessandra Tedesco, che vi dà appuntamento sabato alle 21. Matteo Comes in regia, la parte tecnica. Laura Vanossi in redazione. Buon weekend da Nicoletta.